Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Appartamento sotto sequestro, a Forni di Sopra le indagini sulla fuga di monossido e le possibili cause di malfunzionamento della caldaia. A Torre di Pordenone parlano i vicini di Patrizia Pontani. Dovevamo andare a trovarla in montagna, padre e figlia ancora in gravi condizioni. Tra due settimane il picco influenzale in regione, vaccinazione ancora consigliata, infezione caratterizzata da febbre alta per molti giorni. Piano da 226.000 euro a Udine per migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle fermate del trasporto pubblico locale. Più di 600 prodotti sequestrati tra decorazioni natalizie, giocattoli e bigiotteria a Trieste, negozianti segnalati alla Camera di Commercio. Le incredibili avventure di Luca in Friuli Venezia Giulia, Gorizia e Nova Gorizia nel nuovo albo del Palazzo del Fumetto di Pordenone. 12:31 minuti, buongiorno da Dario Ronzoni e Rita Amicoli. Torniamo ancora sulla tragedia da monossido di ieri a Forni di Sopra. Restano gravissime le condizioni di Maurizio e Laura Chisciotti, 73 e 28 anni, padre e figlia, intossicati dal monossido di carbonio nella loro abitazione in montagna a Forni di Sopra, dove ha perso la vita Patrizia Pontani, moglie dell'uomo e madre della ragazza. Entrambi sono ricoverati in terapia intensiva all'ospedale di Cattinara a Trieste. La situazione più preoccupante è quella dell'uomo ed è sotto sequestro. Dopo gli accertamenti effettuati ieri pomeriggio da vigili del fuoco e carabinieri, l'appartamento al pian terreno nel quale si è verificata la tragedia. La procura di Udine ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Abbiamo chiesto a Giorgio Turcati, capo categoria regionale degli installatori e manutentori di impianti di Confartigianato, quando può accadere che si verifichi una fuoriuscita di monossido di carbonio da una caldaia anche nuova. In quali casi può succedere che si sprigioni monossido di carbonio da una caldaia magari anche nuova? Allora, per nuova diciamo un po' più difficile, perché oggi ci sono le caldaie a camera di combustione stagna che prelevano l'aria direttamente dall'esterno. Succede quasi sempre in tutti quei casi dove abbiamo un apparecchio a gas che preleva l'aria comburente, così si chiama, direttamente dall'ambiente e non c'è un apporto d'aria sufficiente a garantire una corretta combustione. Se non ho un corretto apporto d'aria può formarsi il monossido di carbonio. Un altro caso può essere il fatto che non c'è un buon tiraggio del sistema di evacuazione dei fumi, cioè la caldaia non riesce a scaricare bene i fumi in copertura e quindi potrei avere dei rigurgiti di monossido all'interno dell'ambiente che, se respiro, ovviamente sono dannosi. Quindi cosa può non aver funzionato a livello teorico? Potrebbe esserci stata una mancata ventilazione del locale, quindi non c'era un apporto d'aria sufficiente. Così come l'altra causa importante è magari un'ostruzione della canna fumaria che ha appunto creato questa problematica, quindi questo rigurgito di monossido. È importante, soprattutto quando siamo coscienti di avere un apparecchio a gas, ma non solo a gas, anche a biomassa, quindi a legna o a pelle, che per funzionare preleva l'aria dall'ambiente interno, è importantissimo applicare poi quelle che sono le normative vigenti, quindi creare un'apertura di ventilazione opportunatamente adeguata alla potenzialità dell'apparecchio e verificare sempre la corretta evacuazione dei fumi. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. E c'è dolore e apprensione tra i vicini di casa a Pordenone, dove vive la coppia. Abbiamo raccolto alcune voci. È stato un colpo per noi, cioè venire ieri e dirci la Patrizia non c'è più, non ci saremmo mai aspettati questa notizia proprio. La notizia della tragedia di Forni di Sopra ha colpito profondamente i vicini di Patrizia Pontani nelle villette in Viale Grande, quartiere di Torre a Pordenone, dove la famiglia si era trasferita 3 anni fa. Una famiglia gentilissima, preziosi, educati, rispettosi, non si può dire altro proprio. Fate un buon rapporto di vicinanza. Buonissimo, sì. Anche se ci si vedeva poco, perché ognuno ha i propri problemi. Però è nato proprio quell'affetto incondizionato, dicevo io, perché lei anche non era spesso qua. E vi aveva invitato anche ad andare su a Forni? Anche su a Forni, siamo già stati a vedere la prima casa. E adesso avevano venduto quella e comprato questa e ci tenevano che andassimo. La vittima, 66 anni, insegnante in pensione, faceva la spola tra Pordenone e Prato, dove vive la figlia Laura, ingegnera, di 28 anni. Lei e il padre, Maurizio Chisciotti, ex bancario di 73 anni, sono ancora ricoverati in gravi condizioni. I coniugi erano amanti della montagna e avrebbero desiderato trasferirsi stabilmente nella località carnica. Quando ci siamo visti martedì questa settimana, lui mi diceva: Mario, vado perché ho finito i lavori, finalmente ho finito. Io ho detto a lui: mi raccomando, tieni conto di Patrizia. E la notte è successo quello che è successo. I vicini avevano in comune anche la passione per gli animali, si sono detti disponibili ad occuparsi dei cani. Eravamo meglio di fratelli, meglio. C'è da dire cose come se abbiamo perso uno di famiglia. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Voltiamo pagina. Atteso tra 15 giorni circa il picco influenzale in Friuli Venezia Giulia. Febbri e raffreddori che si cominciano a vedere in questo periodo sarebbero soprattutto virus parainfluenzali. La vaccinazione è molto consigliata anche perché quest'anno l'influenza è caratterizzata da febbre alta per molti giorni. La sensazione è che molte persone questo Natale abbiano trascorso le vacanze sotto le coperte con la febbre alta, la tosse, il raffreddore. Ma è davvero influenza già? Siamo di fronte a un picco influenzale? Lo abbiamo chiesto a Margherita Dalcin, dirigente medico di Igiene e Sanità Pubblica di Asugi. È così? È influenza questa? È più, diciamo, sostenuta da virus parainfluenzali, infatti il picco ancora non è arrivato e quindi la sensazione in realtà di avere tante persone a letto non è proprio così, i casi non sono così tanti. Quando arriverà questo picco? È previsto all'incirca fra 15 giorni. Che influenza sarà? Che caratteristiche avrà? Le caratteristiche di questa influenza che si vede per adesso, insomma, sono una febbre molto alta che si dilunga per 5-7 giorni e lascia poi una tosse stizzosa in seguito. Ha senso vaccinarsi? Assolutamente sì, il vaccino antinfluenzale ha una caratteristica di coprire molto bene dall'influenza, dal virus influenzale e di conseguenza, non essendo ancora arrivato il picco, il senso di vaccinarsi c'è e deve essere molto forte. Vaccinare tutti, anche i bambini? Anche i bambini e soprattutto perché, diciamo, tutti abbiamo in famiglia persone fragili, persone che beneficiano dal fatto che noi ci vacciniamo anche se non apparteniamo alle categorie, perché abbiamo persone che ne beneficiano di questo. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Per il prossimo anno scolastico la valutazione dei dirigenti scolastici avrà un impatto sullo stipendio. In questo servizio le reazioni all'annuncio del ministro Valditara. Dall'anno scolastico in corso la retribuzione di risultato dei presidi sarà legata al raggiungimento degli obiettivi. Il 19 dicembre il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha presentato la bozza definitiva di una previsione di legge che risale al 2001 e che già prevedeva una periodica valutazione dei dirigenti scolastici sulla base dei risultati raggiunti. Ora si tratta di definire i criteri, cosa che dovrebbe avvenire nei prossimi mesi. La valutazione è una proposta positiva per Luca Gervasutti dell'Associazione Nazionale dei Presidi Friuli Venezia Giulia, che però chiede che i criteri siano misurabili, oggettivi, trasparenti e condivisi. Il 20% della retribuzione sarà legata al raggiungimento degli obiettivi definiti dal direttore dell'ufficio scolastico regionale. Il restante 80% invece riguarderà gli aspetti oggettivi, come ad esempio la puntuale pubblicazione sui canali istituzionali come l'albo pretorio, l'amministrazione trasparente e il sito scuola, dove si possono leggere i risultati raggiunti nell'ambito organizzativo, amministrativo e didattico. Per la definizione dei criteri, i sindacati chiedono più dialogo con il personale della scuola, dove emerge l'esigenza di sgravare i presidi della complessità della gestione burocratica e di restituire loro il ruolo di rappresentare la comunità scolastica con la quale il preside, questa è la proposta della UIL Scuola, deve avere il tempo di dialogare per condividere le esigenze degli alunni e degli insegnanti e dunque definire insieme il percorso didattico che educherà i cittadini del futuro. La premialità, come concepita dal ministro Valditara, non migliorerà la nostra scuola, spiegano dalla CGIL. È necessario puntare sulle competenze, sul personale qualificato e per questo servono risorse. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il Comune di Udine ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per un intervento destinato a migliorare accessibilità, sicurezza e comfort delle fermate del trasporto pubblico locale nell'ambito del più ampio impegno per promuovere una mobilità sostenibile e inclusiva, in particolare per persone con disabilità o difficoltà motorie e per tutti i cittadini che ogni giorno si muovono con il trasporto pubblico. Verranno realizzate rampe con pendenze per facilitare l'accesso alle carrozzine e introdotti percorsi tattilo-plantari per l'orientamento delle persone ipovedenti. Prevista anche nuova pavimentazione e pensiline con sedute e paline smart, strutture segnaletiche con pannelli LED per fornire informazioni in tempo reale sugli orari delle linee. Il progetto conta su un quadro economico di 226.000 euro. In totale, le fermate accessibili nel sistema di trasporto pubblico urbano oggi sono 142, di queste 32 sono state messe dall'attuale amministrazione. E alle 12.41 diamo uno sguardo al tempo con cielo sereno su gran parte della regione. Queste le temperature registrate alle 11 a Trieste, 14 gradi, a Gorizia 10, Udine 9, Pordenone 5 gradi. Forni di Sopra 8 gradi, sul Piancavallo e a Tolmezzo 4 gradi, a Sappada 0 e a Tarvisio meno 2 gradi e mezzo. Sullo Zoncolan e sul Lussari si sono registrati 5 gradi, mentre sulla costa a Grado e a Lignano 7 gradi e mezzo. Ma come sarà il meteo nel fine settimana e all'inizio della prossima? Ce lo spiega il previsore dell'ARPA, Livio Stefanuto. Il tempo rimarrà bello sulla nostra regione per l'intero fine settimana, domina ancora l'anticiclone che fa fluire aria secca e piuttosto mite in quota, secca tutte le quote. Domani avremo cielo genere poco nuvoloso per il passaggio di qualche velatura al mattino, domenica cielo sereno in tutta la regione. Sul Carso a Trieste soffierà ancora fino a domenica mattina un po' di bora debole e moderata, poi in calo. Inversione termica in montagna con zero termico che si porterà a 2.800 metri circa, mentre nel fondo valle avremo ancora delle accentuate gelate notturne. Nell'inizio della prossima settimana probabilmente la situazione comincerà un po' a cedere, ma rimarrà ancora tempo bello o stabile, cielo che rimarrà comunque prevalentemente sereno, anche se comincerà a esserci l'accumulo di aria un po' più nei bassi tratti, non esclude la formazione di locali nebbie notturne. Quando c'è un anticiclone, la ciclone fa sempre affluire aria piuttosto mite in quota, e quindi abbiamo la permanenza di aria fredda nei bassi strati e la permanenza invece l'arrivo di aria più mite in quota. Questo fenomeno si chiama inversione termica e contribuisce a volte anche all'accumulo di inquinanti nei bassi strati. Si può già fare qualche previsione per Capodanno? È ancora presto perché siamo ancora abbastanza in anticipo. L'unico rischio rimane quello della nebbia durante la notte, mentre la giornata dovrebbe essere tutto sommato una bella giornata. Più di 600 articoli tra decorazioni natalizie, giocattoli e bigiotterie sono stati sequestrati dal nucleo polizia commerciale della Polizia Locale di Trieste. I prodotti non sicuri sono stati ritirati in tre negozi in zona stazione e nel rione di Barriera. A comporre il nucleo, la cui attività parte spesso da segnalazioni della cittadinanza, sono una decina di operatori formati per il monitoraggio di esercizi pubblici, negozi, strutture ricettive e commercio ambulante. Gli articoli in una norma individuati dagli agenti erano privi delle informazioni obbligatorie previste per legge, la loro assenza e dunque l'impossibilità di comprendere l'origine del prodotto e il suo corretto utilizzo rappresenta un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori. Sequestrati anche 52 giocattoli per bambini senza requisiti di sicurezza e senza le avvertenze. La polizia locale invita a verificare che il giocattolo abbia il marchio CE con le avvertenze conformi. Non è raro che alcuni giocattoli contengano ftalati derivati dal petrolio utilizzati per ammorbidire il prodotto e che possono recare danni al fegato, ai reni e allo sviluppo del bambino. La bigiotteria può invece essere fonte di possibili allergie o dermatiti per la presenza di sostanze come il nickel, che deve sempre essere indicata. Gli esercenti dei tre negozi sono stati segnalati alla Camera di Commercio della Venezia Giulia per le violazioni e l'iter sanzionatorio. Ancora a cronaca, era scappato a luglio da una comunità di Pordenone in cui era stato collocato dopo una rapina commessa a Jesolo, il minorenne di origine tunisina arrestato in Veneto per aver minacciato con spray al peperoncino e un coltello un addetto alla sicurezza di un locale notturno. Il giovane e i tre ragazzi che erano con lui erano stati allontanati dall'ingresso del locale perché non tesserati, avevano reagito al diniego del buttafuori 27enne accerchiandolo e minacciandolo. Un altro addetto, però testimone del fatto, aveva chiamato la polizia inducendo il gruppetto a fuggire. Gli agenti della Volante Veneta li hanno rintracciati poco lontano in un bar. Il minorenne aveva con sé lo spray al peperoncino. Dopo la fuga dalla comunità, il Tribunale per i minorenni di Venezia aveva già deciso l'aggravamento della misura in carcere. Il giovane è stato così portato nel penitenziario per minori a Treviso. Dei tre ragazzi coinvolti, un minorenne senza fissa dimora è stato affidato a una comunità del Pordenonese, mentre gli altri sono stati denunciati per minacce aggravate. L'uso di petardi, razzi e bengala, cui si ricorre in occasione della ricorrenza di San Silvestro e dell'avvio del nuovo anno, deve sempre essere consapevole dei rischi e delle avvertenze d'uso necessarie a evitare pericoli a volte irreparabili. A Trieste, in questura, una conferenza stampa della Polizia di Stato ha sottolineato le principali avvertenze. È la prevenzione il focus dell'attività della Polizia di Stato nei giorni che precedono i festeggiamenti di Capodanno in vista degli spettacoli pirotecnici che animeranno le piazze cittadine, ma anche, sebbene in misura minore, gli spazi antistanti le abitazioni private. Da qui la conferenza stampa organizzata nella questura di Trieste, in cui la prima raccomandazione emersa è stata quella di attenzione all'etichettatura dei prodotti che vengono acquistati nei negozi. Sull'etichetta devono infatti essere riportati dati obbligatori come il nome del produttore e le modalità d'uso, che nella grande maggioranza dei prodotti devono essere limitate all'aperto, quanto più possibile lontani dall'abitato e avendo cura di non essere un pericolo né per le persone né per gli edifici. Da notare poi le avvertenze sulla conservazione dei prodotti, che non devono essere riposti in ambienti umidi così da non subire alterazioni in fase di accensione. Un altro distinguo riguarda le condizioni meteo, perché il vento forte può trasportare razzi e bengala molto lontano dal luogo di lancio, imprimendo traiettorie impreviste che potrebbero tradursi in pericoli per l'incolumità altrui. Infine, la massima attenzione deve essere riservata alle istruzioni d'uso, perché maneggiare materiale esplosivo anziché posizionarlo negli appositi supporti forniti dal produttore può diventare un errore imperdonabile. Anche per questo motivo le norme prevedono 4 categorie di prodotti che in nessun caso possono essere venduti ai minori di 14 anni e che per le tipologie più complesse sono riservati ad acquirenti maggiorenni. Trieste, Maria Spezia, TGR, Friuli Venezia Giulia. La storia di Gorizia e di Nova Gorizia a fumetti si intitola Le incredibili avventure di Luca in Friuli Venezia Giulia, il nuovo albo del Palazzo del Fumetto di Pordenone, un racconto generazionale della storia di una città divisa dal confine esplorata da Luca, un personaggio già conosciuto in un racconto ambientato a Polcenigo. Le tavole sono esposte al PAF a Pordenone nella mostra aperta da oggi e noi abbiamo sentito Francesco Matteuzzi, che ha curato la sceneggiatura della storia, per sapere da quale aspetto sono partiti. Sono due le cose che abbiamo tenuto in mente. Visto che la storia è ambientata tra Gorizia e Nova Gorizia, dovevamo da una parte raccontare il territorio e quindi esplorarlo insieme ai personaggi e insieme ai lettori, chiaramente. Dall'altra parte dovevamo creare una storia divertente che emozionasse. Quindi siamo in realtà partiti da qua per creare un'amalgama delle due cose che ci permettesse di fare un viaggio in questa doppia città e allo stesso tempo che fosse esplorativo e in qualche modo didattico, ma dall'altra parte che fosse anche divertente, che desse un'emozione a chi legge. Perché avete scelto il fumetto come mezzo? Il progetto di Turismo Fumetti nasce dal Palazzo del Fumetto di Pordenone, quindi la scelta del linguaggio era in qualche modo obbligata, diciamo così. Oltre a questo, che è un aspetto puramente tecnico, posso dire che il fumetto è un mezzo espressivo dalle potenzialità gigantesche, è il mio mezzo espressivo innanzitutto. Io sono sceneggiatore di fumetti proprio come prima attività, in questo caso insieme a Valentina Angelone, che si è occupata della parte grafica, e il fumetto permette di viaggiare, permette di mostrare delle cose, permette di suggerire delle cose. Ecco, io ritengo che sia appunto un linguaggio estremamente versatile e estremamente comunicativo e quindi perfetto in realtà per una storia di questo tipo. E chi è rivolta questa storia? È rivolta un po' a tutti. diciamo che la pubblicazione è pensata per un pubblico giovane, tanto che in coda ci sono anche un po' di giochi da fare, c'è un cruciverba, c'è un quiz, ci sono un po' di cose di questo tipo. Io in realtà scrivendola non ho pensato molto ai bambini, nel senso ho voluto fare una storia che fosse perfettamente leggibile anche da un pubblico di bambini, ma che fosse poi leggibile da tutti, in cui ognuno potesse trovare qualcosa di diverso. Quindi magari un lettore più giovane ci trova l'avventura più divertente e il lettore più grande, un adulto, ci trova invece qualcosa di un pochino più profondo e più emozionante. E anche quest'anno i musei statali del Friuli Venezia Giulia per le festività natalizie sono visitabili con aperture straordinarie e diverse iniziative. Al Museo Storico e Parco del Castello di Miramare sarà visitabile ogni giorno la mostra Nature, allestita alle scuderie e al castello, anche il 1 gennaio 2025 con orario 10-18. Il parco seguirà invece i consueti orari stagionali e sarà visitabile fino alle 16. Il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia amplia gli orari di apertura per guidare i visitatori alla scoperta dei nuovissimi spazi di deposito aperti al pubblico e inaugurati lo scorso mese. Per partecipare alla visita è necessario prenotare scrivendo a museoaquileia20@cultura.gov.it oppure telefonando. Gli appuntamenti in programma di questi quindi il 2 gennaio 15:30, le aperture straordinarie del museo saranno il 30 dicembre, mercoledì 1 gennaio e lunedì 6 gennaio. Mentre il Museo Archeologico di Cividale sarà sempre aperto dal martedì alla domenica con il consueto orario 10-19, eccezionalmente anche lunedì 6 gennaio. Ora lo sport, la pallavolo in A1 femminile, la CDA Talmassons ha perso per 3-7-0 contro le campionesse del mondo del Conegliano, ma si è dimostrata capace di tenere testa alle venete. Il risultato 3-0 era prevedibile, ma la CDA ha combattuto rischiando di strappare un set al Palasport di Villorba, gremito con oltre 5.000 spettatori e vestito a festa per il successo del Conegliano nel Mondiale per Club. Da sottolineare che il coach delle Venete Santarelli ha dato ampio spazio alle seconde linee, lasciando in campo tra le titolari fisse solo l'opposta Hawk e la libera De Gennaro, ma anche Conegliano 2 ha qualità da vendere e lo si è visto in campo. Il primo set ha visto una prevalenza delle venete, soprattutto in difesa, con una fenomenale De Gennaro in grado di coprire una porzione di campo enorme. Dalla parte della CDA, in maglia bianca, la sola Storca ha provato a mettere in difficoltà la retroguardia delle padrone di casa. Sul 21-14 c'è stata la prima positiva reazione del Talmassons, che ha recuperato punti annullando 4 set point prima di cedere sul 25-22. La tendenza positiva è proseguita anche nel secondo set, iniziato benissimo per il team di Barbieri. Il 10-3 iniziale ha fatto sperare in una crisi delle venete, ma la reazione è arrivata subito dopo, con la Nir che ha aggiustato il tiro e con gli attacchi delle centrali, tra cui la ex Eckel. La Prosecco Doc ha messo in mostra un gioco spumeggiante e travolgente, logica conclusione il 25-19. La musica è cambiata nel terzo set, con le stesse giocatrici, giocato punto a punto dall'inizio alla fine. Talmassons ha ricevuto e difeso meglio, trovando soluzioni in attacco con più giocatrici, e Amuro ha messo paura alle attaccanti venete. La CDA ha avuto 3 set point, con Conegliano finora in casa non ha ceduto nemmeno un set, ma alla fine le campionesse del mondo hanno avuto la meglio con Vowosh in campo e con l'opposta di riserva ad Igue, che ha saputo mettere a terra alcuni palloni importanti, fino al 28-26 finale. Le friulane escono sconfitte con onore, la prova di squadra fa ben sperare, nessuna delle concorrenti per la salvezza ha fatto punti, per cui la situazione rimane invariata. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. In regia Roberto Cavallari e Marco Ferrito, in redazione ha collaborato Valentina Veneruso. Da Dario Ronzoni e Rita Micoli grazie per l'ascolto, l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.